È un quadro un po' desolante, in quanto Bologna comunque è una grande città e al pari di tante altre viene messa un po' come fanalino di coda, soprattutto per appunto le irregolarità rispetto ai codici identificativi e a quello che riguarda i dispositivi di sicurezza. Quindi noi qui abbiamo una situazione che solo l'8,88% è completamente in regola su tutti i dispositivi di sicurezza. Questo è un rischio ovviamente per il turista che si reca in questi locali, ma è anche un rischio per quei condomini che all'interno di quelle abitazioni vivono. E noi abbiamo ovviamente voluto segnalare la questione, anche perché è da tempo che chiediamo che vengano resi obbligatori, ad esempio sulle piattaforme dove ci sono queste locazioni, appunto affitti brevi, dove vengono pubblicizzate o dove vengono proprio, ci sono dei siti apposta, lo sappiamo tutti benissimo, no? Ci sia la possibilità di leggere il nome e cognome della persona che affitta, l'indirizzo, che è importante anche per un controllo sociale, capire dove sono questi affitti brevi, queste case, questi alloggi, e nello stesso tempo poter verificare che all'interno appunto ci siano le dovute normative di sicurezza, le dovuti dispositivi di sicurezza, ma anche tutto quello che è la regolarizzazione rispetto a, appunto, ai codici identificativi e quello che comporta il codice identificativo. Lo stiamo chiedendo già da diverso tempo, abbiamo anche chiesto a queste piattaforme di poter escludere dai loro circuiti chi continua a non mettersi in regola. Al momento siamo purtroppo senza nessuna risposta. Noi insieme a Sunia comunque abbiamo deciso di fare un'iniziativa, quindi uno sportello, al momento è ancora in progetto, ma lo sportello che dovrà partire probabilmente già da gennaio, si chiama Questo Condominio Non È Un Albergo, proprio perché ci possano venire fornite quelle segnalazioni di persone che affittano appunto a turisti, ma che in realtà non hanno né dei codici identificativi, qui la dichiarazione esposta che tutto sia in regola, e non abbiano eventualmente anche le condizioni di sicurezza. Questo potrebbe già essere per noi importante per poi segnalare alle dovute autorità competenti eventuali problematiche appunto che potessero emergere, quindi eventuali irregolarità. Sappiamo, e è scritto anche nell'indagine, che gli affitti brevi turistici sono una delle componenti che hanno alterato anche un po' il mercato immobiliare in generale nella nostra città, e non solo, in particolare irregolarità di questi profili rischiano poi di fare anche concorrenza sleale agli albergatori, no? Sì, la concorrenza sleale agli albergatori, ma anche agli stessi host che fanno le cose in maniera corretta. Sicuramente il problema su Bologna c'era anche prima, questo fenomeno del turismo, che per carità non è che voglia bannare o eliminare, ci mancherebbe. La cosa che noi riteniamo importante è che sia fatto con le regole giuste, le regole corrette. È vero che manca delle basi anche legislative importanti che diano ai comuni e alle regioni delle possibilità di contenere e monitorare in maniera più, come dire, pregnante, e questo il governo lo deve mettere in campo invece di continuare a, come dire, procrastinare l'entrata in vigore del codice identificativo nazionale, o meglio l'entrata in vigore delle sanzioni per chi non ha quel codice. Ricordiamo un po' anche, ascoltatrici e ascoltatori, qual è la funzione di questo codice? La funzione di questo codice è sostanzialmente avere sotto una lente, non dico di ingrandimento, ma sicuramente di attenzione, quelle che sono tutte le locazioni dati in affitti brevi, anche le camere in affitto per turisti. Quindi all'interno poi di questo ci sono delle normative che vanno sia dalla parte fiscale e finanziaria, cioè nel senso che vanno a tassare ovviamente le entrate di queste realtà, e che mettono nelle condizioni di regolarità quelle che sono delle metrature piuttosto che degli spazi che devono essere consentiti all'interno, e noi diciamo anche quelle che dovrebbero essere le normative di sicurezza all'interno di quelle realtà. Guardate, parliamo anche di cose molto banali come semplicemente un rilevatore di monossido di carbonio. Abbiamo visto che tantissime non hanno nemmeno questo come dispositivo di sicurezza, non è che ci aspettiamo che tutti installino l'estintore, però come dire, un rilevatore di monossido di carbonio e uno di antincendio sarebbero il minimo, come dire, sindacale che dovrebbe essere previsto. Credo che tutti gli alberghi lo abbiano oltretutto, no? Quindi non vedo qual è la differenza in questo caso per la sicurezza del turista, ovviamente.